nelle stelle chissà cosa c'è, forse un mondo diverso per chi non ha avuto mai niente in questo mondo qui, al di là delle stelle lo avrà, al di là del suo sguardo chissà cosa c'è, forse c'è un sentimento per me, come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guarda. State già qui. Come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai. Dicembre, l'estate già qui.